Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Che l'Europa non esiste e non interessi quasi a nessuno, lo si nota anche dal pochissimo spazio che i media danno ai commenti su questo avvenimento continentale. Anche le elezioni europee, infatti, sono lette quale prova politica su scala nazionale. Non si sentono che scarne analisi su ciò che è successo negli altri paesi. Ora che abbiamo il digitale terrestre con molti più canali, non esiste nemmeno un notiziario su scala europea. Insomma, l'Europa rimane un bel progetto, ma senza anima, senza una vera unità, senza una tradizione condivisa, senza un notiziario continentale. In definitiva, ci unisce solo la moneta. Mi sembra troppo poco. Per il resto, la stampa abbonda di pettegolezzi, di retroscena, di chiacchiere che durano lo spazio di un mattino e di poca saggezza. Che peccato. Non capisco poi, per esempio, perché si dica che l'Europa è andata a destra quando il maggior successo è per i popolari, che sono dei moderati di centro. Ma ormai, col relativismo, che cosa sono destra, sinistra o centro? Claudio. Egregio direttore, visto che nei prossimi giorni in molti le scriveranno per dirle che Berlusconi non ha sfondato e bla bla bla, vorrei solo dire che il PDL, pur non brillando, è il primo partito in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali. Anche nella seconda circoscrizione del nord-est d'Emilia e terza circoscrizione del centro, dove il PD ha sempre avuto la meglio, ovviamente più per demeriti del PD che per meriti propri, però è così. Magari potrebbe ricordarlo a chiunque dovesse insistere sul fatto che il PDL non ha sfondato. Così, come semplice dato di fatto. Alex. Ma dov'è la crisi di Berlusconi? Vince al primo turno alle amministrative in province che erano roccaforti della sinistra. Il PDL è primo partito in ex regioni rosse come Umbria e Marche. Ha preso il 35% alle europee. Ma dove sta il calo? Non sono un elettore di centrodestra, anzi, ma quanto dice Franceschini è stucchevole e patetico. Lettera firmata. Buongiorno, sono proprio felice. Le elezioni europee hanno registrato una minore affluenza alle urne, per non parlare delle grandi vittorie in molti stati dei partiti euroscettici. Musica per le mie orecchie. Oltre alle bocciature del popolo francese e irlandese della Costituzione europea, ora un altro segnale di risveglio del popolo nei confronti dell'Unione europea. Finalmente le persone si sono rese conto che l'Unione Europea è solo un grande contenitore di politici riciclati che fanno solo gli interessi delle grandi lobby e di alcune multinazionali. Finalmente il popolo ha capito che l'UE è nociva alle persone, che ogni Stato ha esigenze diverse e non può sottostare a leggi comuni. Damiano. Posto che l'attuale governo in carica esce da questo test elettorale completamente indenne, cosa ne pensate dell'esultanza delle opposizioni? Franceschini in testa, che da lunedì ostentano un atteggiamento da vincitori al punto di affermare cose al limite dell'assurdo, tipo «abbiamo vinto noi». È chiaro che non possono ammettere il risultato desolante che hanno ottenuto, ma non credete che potrebbero semplicemente fermarsi al dato e magari, se non è chiedere troppo, riflettere? E poi, pensate che una volta archiviate le elezioni, tutti quei paladini della giustizia e della morale, che tanto rumore avevano fatto riguardo le vicende di Berlusconi, continueranno a combattere la crociata moralizzatrice che sembrava l'unico scopo della loro vita, oppure lasceranno perdere? In quest'ultimo caso, forse sarebbe opportuno portare la cosa all'attenzione del pubblico, tanto per chiarire quanto fossero validi gli argomenti che sostenevano e, soprattutto, quanto stessero loro effettivamente a cuore. Alberto. Mi è capitato di sentire Marco Ferrando durante la campagna elettorale. Ai due giornalisti che lo interrogavano spiegava l'essenza dell'internazionalismo proletario e l'assoluta purezza del Partito Comunista dei Lavoratori, del quale è segretario, un partito che si è scavata una nicchia nel profondo dell'elettorato comunista più intransigente, ma anche più dogmatico. Mi domandavo se sperasse di accrescere i suoi consensi e fino a quando, dal momento che i gruppi dirigenti che guidano i partiti della sinistra, che ho fin qui conosciuto, non amano che il loro giocattolino possa crescere fino al punto di esprimere nuovi dirigenti, diventando in questo modo incontrollabili. Conosco vicende che sono la prova delle responsabilità interne ai partiti della sinistra dei tracolli elettorali. Una giovane donna, ginecologa, dirigente di un centro che assiste le donne, soprattutto quelle più povere e più sole, viene reclutata e proposta candidata al Consiglio Comunale. Tutto va bene fino a quando non viene eletta e diventa oggetto di sospettoso ostracismo da parte della federazione. Non viene invitata alle riunioni più importanti, non viene utilizzata per assemblee, riunioni, comizi. Si fa di tutto per cancellarne ogni traccia di presenza. Un'altra persona viene candidata alle elezioni regionali in un paese in cui la sua famiglia gode di prestigio. Viene eletta con un mare di voti, ma è destinata ad essere usata e buttata via dal momento che nel gruppo dirigente del partito, in questo caso il vecchio PCI, c'è un accordo tra 6 o 7 persone per spartirsi tutte le candidature, gli incarichi, arrivando a stabilire il numero di legislature che ognuno di loro dovrà fare. Quando gli accordi di questo tipo si rompono, si aprono varchi temporanei per una novità, oppure succede che uno del gruppo, a poco, si mangia tutti gli altri e decide di regnare da solo. Insomma, ci sono responsabilità soggettive degli apparati dei partiti comunisti nell'insuccesso elettorale, anche se naturalmente non sono le sole e forse neppure le più importanti. Credo che ci siano componenti narcisistiche terribili che agiscano per tenere divisa la sinistra. Una volta esisteva l'autocritica, una sorta di rito religioso con il quale si riconoscevano i propri errori. Ora non ce n'è più traccia e nessuno riconosce i propri errori. Forse che la Menapace ha riconosciuto di essersi comportata sulle questioni militari esattamente come coloro che aveva criticato per tutta una vita? Qualcuno ha forse riconosciuto gli errori compiuti prima del governo D'Alema e poi in quello di Prodi? Qualcuno si è battuto il petto per la delusione del popolo del 20 ottobre? E per i bombardamenti di Belgrado? Molti compagni che conosco da anni hanno votato Di Pietro soltanto perché sentono in lui quello che vorrebbero sentire dagli altri esponenti del proprio partito. Per me sbagliano, ma com'è possibile risalire dal fondo del pozzo se non facciamo i conti con la realtà e se non indaghiamo fino in fondo su che cosa siamo e come gli altri ci vedono? Pietro. Si dice che il PDL non abbia fatto una bella figura per non aver raggiunto il 40% fissato da Berlusconi e fermandosi al 35%. Ma il dato più importante, secondo me, e che nessuno ha colto finora nei vari commenti, è il come questo 35% sia stato raggiunto. Il voto del PDL si è completamente spostato al centro-sud. Solo grazie al sud, dove sfonda il 40%, riesce a reggere la botta. In realtà, se andiamo a guardare il dato per circoscrizione, il dato più vistoso e importante è il pareggio col PD raggiunto nel Triveneto, 28,04 contro 28,10. Anche nel nord-ovest non è che se la passi benissimo. Si è sempre detto che Forza Italia era il partito dei piccoli imprenditori, dei professionisti, eccetera. Ma a questo punto è mutata la stessa natura del partito, visto che nella terra della piccola impresa per antonomasia c'è una fuga generale da Berlusconi. Mauro. Cara Radio 24, la verità? La verità è che abbiamo perso. Oltre alle elezioni, abbiamo perso anche l'obiettività. Abbiamo perso la voglia di vincere. E abbiamo perso la buona abitudine di pensare in grande. Ho scorso parecchi risultati e la cosa più chiara è che la sinistra divisa non è una forza. In tutti i comuni le percentuali erano chiare. Sinistra unita 55-65%, sinistra divisa 40%-52% o anche meno. Questo purtroppo i nostri dirigenti non lo ammetteranno mai. Anzi, martedì sull'Unità c'era la foto di Deborah Serracchiani e il titolo «Questa ragazza ha battuto Berlusconi». Sinceramente, se io fossi stato al posto di Concita De Gregorio avrei titolato «Berlusconi battuto dalla chiarezza di questa ragazza». Chiarezza e voglia di giocare uniti, cose che nel PD e in tutta la sinistra non accennano a vedersi. Fra i nostri dirigenti prevale un grande personalismo che ovviamente non fa rima né con comunismo né con socialismo. Rudy. Egregio direttore, da attento radioascoltatore dell'emittente scopro di giorno in giorno la saggezza della gente comune che si rivolge a Radio 24 per esprimere la propria opinione. Lodevole il raffronto tra pubblico e privato ascoltato oggi alle prime ore dell'alba. Vengo al dunque e le espongo la mia considerazione sul comportamento dei candidati alle amministrative nel piccolo paese della Bassa Bergamasca nel quale vivo. Due liste civiche si sono contese l'amministrazione del comune. La conferma della giunta in carica ha lasciato disappunto sui contendenti, come avrebbe creato disagio all'altra compagine, la defenestrazione. Alle rimostranze dei non eletti ho chiesto cosa li aveva mossi ad accettare la candidatura alla guida del paese e, come non avevo dubbio, è emerso che nessuno, né dall'una né dall'altra parte, aveva messo in conto di offrire il proprio tempo libero, immolandolo sull'altare sacrificale. Perciò delle due l'una. O l'abnegazione non era tale da comprovare il sacrificio, o l'obiettivo era altro, come ovunque avviene. Gioacchino. Sono un elettore di centrosinistra. Voto per il PD. Prima votavo per DS e ancor prima per il Partito Comunista. Non svolgendo attività politica e non essendo iscritto ad alcun partito, come sempre mi accade al momento di esprimere le preferenze, vengo preso da una specie di mania che mi porta a leggere le date di nascita di tutti i candidati di tutte le liste scritte sui cartelloni pubblicitari. E così ho fatto anche sabato scorso. Ho notato che, sempre di più, le varie liste contengono candidati giovanissimi, nella stragrande maggioranza dei casi studenti universitari, probabilmente iscritti ai primi anni del corso di laurea. Ora mi chiedo, non vi sembra che candidare un giovane di 20 anni o poco più, studente, e quindi senza grandi esperienze di vita vera, lavorativa, di qualsiasi tipo, sia un'assurdità? Ho sempre pensato all'attività politica come all'attività di persone che potessero portare la loro esperienza a servizio della collettività. Va bene, mettiamoci dentro anche la meno nobile rappresentazione di centri di potere, di lobby, eccetera, ma uno studente che cosa porta? Esperienza? Rappresenta forse un centro di potere? Una lobby? Forse un modo che i partiti hanno trovato per far credere agli elettori che, inserendo dei giovanissimi, sembrano anche loro meno vecchi? Ma così facendo non cambierà proprio un bel nulla nel nostro paese. I giovani della politica sono persone come Obama, Sarkozy, Zapatero. Lo è stato Blair, all'inizio forse lo è stato anche Berlusconi, non per l'età, ma per la dinamicità che ha portato nel modo di fare politica. Lo sono stati Fini, D'Alema e Veltroni, 25 anni fa. L'Italia ha bisogno di persone giovani, ma con esperienze significative, che possano prestarsi alla politica per qualche anno e poi ritornare da dove venivano. Non ha bisogno né dei ragazzini, né dei vecchietti o dei professionisti della politica. Massimiliano. Ho appena sentito i dati di quanto spende l'Italia in armamenti. Ho fatto il militare qualche anno fa e uno dei ricordi che mi sono rimasti impressi di più è l'assoluta inadeguatezza dei mezzi dell'esercito italiano. Camion che durante la notte andavano messi in moto ogni 4 ore perché nel rigido inverno di Cuneo non rischiassero il congelamento. E parlo di Cuneo, mica di Stoccolma. E questo è solo un esempio, ne potrei citare tanti altri. Non è che per caso la spesa per l'esercito italiano assomiglia alle spese per la sanità che vengono fatte in alcuni comuni italiani? Fabio. Caro direttore, ogni tanto leggo o sento che i cittadini, le cui abitazioni sono situate vicino alla pista di Linate o Malpensa, sono in rivolta, non possono più vivere. Aerei che sorvolano bassi, blocchi di ghiaccio che sfondano i tetti, rumore, eccetera. Ogni aeroporto nasce con impianti ed estese servitù, ovvero delle zone che sono l'ideale continuazione delle piste e che, per legge, devono essere aree senza alcun tipo di insediamento. Tanto per intenderci, prato, prato e ancora prato. Ora, dato che l'aeroporto Forlanini, come quello di Malpensa, sono nati con le loro servitù molto prima della Seconda Guerra Mondiale, Linate addirittura negli anni 20, non sarebbe il caso di andare a prendere tutti quei pubblici ufficiali che nel corso dei decenni hanno autorizzato la costruzione di case in queste aree proibite e metterli di fronte alle loro responsabilità? Edoardo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.